Non vorrei togliere tempo alle nostre relazioni, dunque do subito la parola all'amico Cantillo che è con noi con la sua solidità di studioso. Cantillo è stato ed è uno studioso attento di Hegel, dello storicismo tedesco, un attento studioso della fenomenologia della religione, dunque da diversi punti di vista la sua attenzione può convergere con molta competenza sul tema che stiamo trattando. Gli siamo grati e a lui la parola, prego. Ringrazio il professore Melchiorre per quanto ha voluto generosamente dire sul mio lavoro scientifico e preciso che la mia relazione è un contributo alla determinazione del rapporto di Jaspers con Kierkegaard. Nella filosofische Autobiografie, Karl Jaspers scrive: durante la Prima Guerra Mondiale lessi a fondo Plotino, ma un'illuminazione mi venne soprattutto da Kierkegaard. A lui devo il concetto di esistenza, che a partire dal 1916 mi fu determinante per capire cose che fino ad allora mi avevano affaticato nella mia inquietudine. Questa testimonianza trova conferma in una lettera a Heidegger del 1928, in cui Jaspers scrive: durante l'inverno io tengo un corso su Kant e Kierkegaard, due autori centrali per lo sviluppo del pensiero di Jaspers. Kierkegaard mi ha interessato fin dal 1917, ma poi l'ho trascurato, tranne un corso in un semestre estivo del 1923, ed ora io ritorno a Kierkegaard con grande gioia e con grande speranza. Queste testimonianze ci dicono appunto il ruolo fondamentale che ha avuto Kierkegaard nello sviluppo del pensiero di Jaspers, insieme, anche se su piani diversi, a Kant, Nietzsche e Weber, come Jaspers stesso ricorda nelle pagine iniziali della Psicologie del Weltanschauung. Il rilievo della filosofia kierkegaardiana è poi testimoniata da una serie di corsi, appunto, tenuti su Kierkegaard dal 23 al 37, da tre saggi dedicati specificamente al filosofo danese, dal 51 al 66, e soprattutto, a parte poi le grandi opere, le opere principali di Jaspers, soprattutto da un amplissimo materiale che è presente nel Nachlass jaspersiano, dove troviamo lo schema dettagliato e la stesura di una prima parte di quello che doveva essere un capitolo su Kierkegaard in un nuovo volume di Die großen Philosophen. Ma ancora di più, tale rilievo appare evidente nella risonanza che la filosofia kierkegaardiana ha nelle grandi opere jaspersiane. Non è un caso che poco dopo la Prima Guerra Mondiale venga pubblicata appunto Psicologie del Weltanschauung, abitualmente considerata un documento fondamentale, insieme al commento al Römerbrief di Karl Barth, della cosiddetta Kierkegaard Renaissance. Al di là della validità che può avere questa categoria storiografica, Certamente la psicologia del Weltanschauung rimane un testo che lascia emergere in modo palese molti motivi di interesse per Kierkegaard che caratterizzeranno la filosofia del Novecento. Più specificamente appaiono evidenti, sia pure non ancora sedimentati in modo adeguato, ma piuttosto emergenti in modo talvolta improvviso nello scorrere delle argomentazioni, i tratti della presenza di Kierkegaard che ispireranno costantemente l'intero percorso speculativo di Aspers, offrendo paradigmi interpretativi dell'umano nel suo divenire e nel suo rapporto con l'alterità, con la trascendenza. Il nucleo portante di tale presenza kierkegaardiana è tutto in quel concetto di esistenza, definito illuminante nel brano dell'autobiografia citato all'inizio. L'esistenza funge infatti nel percorso jaspersiano da polo di attrazione di una pluralità di istanze, in parte già scandagliate ampiamente da Jaspers in chiave psicopatologica, in parte comunque presenti nella psicopatologia, ma solo latentamente e anche grazie all'apporto kierkegaardiano portate a livello dell'indagine filosofica proprio nella psicologia del Weltanschauung. Parlare di esistenza per Jaspers, per lo Jaspers esperto delle antinomie dell'umano attraverso lo studio della malattia mentale, significa cogliere lo stretto nesso che sempre intercorre tra autocoscienza e processo del divenire se stessi, del divenire un sé. Significa individuare nella scelta di se stessi che, come Jaspers precisa nella psicologia del Weltanschauung, sta in rapporto strettissimo con la realtà, l'elemento più vivo del cammino dell'autoformazione personale. Scrive Jaspers nella psicologia del Weltanschauung: l'autoformazione che riposa sulla scelta di se stesso è un'autoformazione concreta. In quel vivo atto che è la scelta del sì e del no, essa decide definitivamente, ma in quanto fatto generale si sottrae ad ogni formulazione e non si lascia intravedere in schemi. Tale autoformazione non ignora mai il generale, ma lo inserisce nella viva e travalicante vita del sé. Perciò si fonda sulla profondità e la sicurezza degli impulsi di vita di cui il sé, il soggetto, il Selbst, è pronto ad accettare le conseguenze e ad assumere la responsabilità. Dall'autoformazione al divenire un sé, dagli atteggiamenti soggettivi alla vita dello spirito, rompendo il carattere statico, l'involucro rappresentato dalle immagini del mondo che sempre tendono a cristallizzare l'esperienza della vita. E questo è il percorso della psicologia jaspersiana. La vita dello spirito è tutta segnata dall'approfondimento di dinamiche indicate da Kierkegaard. Il sé jaspersiano della psicologia del Weltanschauung è il singolo kierkegaardiano, alla ricerca di un universale come aspetto caratterizzante il suo stesso proprio divenire. Scrive Jaspers nell'opera del 19: l'uomo non esiste se non esiste come singolo. Divenire un sé significa che l'universale diviene nel singolo e che non si può accantonare a nessuno dei due. Il sé come divenire non è però un processo naturale che si dipana semplicemente come l'età della vita. L'elemento costitutivo centrale del sé è che in esso qualcosa si rapporta a se stesso. In questo rapportarsi a se stesso risiede il processo del divenire. E citando Kierkegaard aggiunge: l'uomo è una sintesi di infinità e finitezza, di temporale e di eterno, di libertà e di necessità. E in breve una sintesi. Una sintesi è un rapporto tra due cose. Considerato in questo rispetto, l'uomo non è ancora un sé. Perché egli sia un sé, occorre che l'essenza di tale sintesi sia consapevole di sé. Bisogna che il rapporto, come dice Kierkegaard, si rapporti a se stesso, e allora il sé. Essendo l'uomo una sintesi, la sua esistenza e il suo sé vengono meno quando egli perde un termine della sintesi. Fine della citazione. È su questo orizzonte di fondo che si innesta la declinazione delle diverse situazioni dell'esistenza, la cui analisi è in molti casi ispirata da Kierkegaard, quali la sofferenza, la colpa, la disperazione, tutte evocabili complessivamente attraverso il richiamo al momento, all'Augenblick, come la situazione paradigmatica in cui il sé è chiamato a divenire se stesso. Il momento, scrive Jaspers, è il luogo in cui si svela ogni vita e perciò è infinitamente molteplice nelle sue forme, che vanno dalle più povere alle più ricche, dalle più semplici alle più complesse. È nel momento che si compie la sintesi del temporale e dell'eterno. Di questa sintesi ha bisogno il pensatore esistentivo come Jaspers. Scrive nella psicologia, perché la verità è l'interiorità, la soggettività. La verità è strettamente congiunta alla passione del soggetto esistente. Kierkegaard, nella postilla conclusiva non scientifica, afferma la passione dell'infinitezza è essa stessa la verità, ma la passione dell'infinitezza è precisamente la soggettività, e così la soggettività è la verità. E non è invece legata all'illusione di togliersi da se stesso, illusione propria di colui che pretende di conoscere oggettivamente. E posta qui, quindi, già nella psicologia del Weltanschauung, la questione cardine della filosofia dell'esistenza jaspersiana, che costituisce d'altro canto la ripresa di uno dei temi più significativi della filosofia di Kierkegaard e contemporaneamente uno dei nuclei tematici più importanti di filosofia, l'opera jaspersiana del 32. Come Jaspers scriverà molti anni dopo, in Vasist Existentialismus, ciò che Kierkegaard propone è il ritorno da una verità che viene solo pensata come l'altro di fronte al quale io stesso sono indifferente, ad una verità che viene vissuta con l'impegno che è proprio dell'essere uomo, che è libero e deve decidere circa se stesso. Jaspers, come Kierkegaard, si lascia interpellare da quella ambivalenza che caratterizza sempre l'attività del pensiero, o meglio del pensare. Da un lato la tendenza del pensiero ad esprimersi in proposizioni universalmente valide, dall'altro la radice singolare del rapporto con la verità e quindi il carattere soggettivo della verità stessa. Questa tematica viene sviluppata, come è noto, da Kierkegaard, soprattutto nella postilla, dove troviamo espresse in modo chiaro e analitico la distinzione tra pensatore soggettivo esistente e pensatore oggettivo, quindi tra pensiero esistentivo e pensiero oggettivo. Troviamo qui un utile riferimento per meglio comprendere nuclei fondamentali dell'impostazione jaspersiana, specie in filosofia, quali in particolare la distinzione tra la conoscenza come pensiero oggettivo, quindi le scienze, e anche la filosofia quando vuole porsi come scienza, e dall'altro invece il pensiero che muove dall'esistenza, il pensare a partire dall'esistenza, quindi un pensiero soggettivo. Scrive Kierkegaard nella postilla, la via della riflessione oggettiva trasforma il soggetto in qualcosa di accidentale e quindi riduce l'esistenza a qualcosa di indifferente, di evanescente. Allontanandosi dal soggetto si finisce nella verità oggettiva e mentre il soggetto e la soggettività diventano indifferenti, lo diventa anche la verità. Ed è questa precisamente la sua validità oggettiva. Al suo culmine questa via porterà una contraddizione e in quanto il soggetto non sarà completamente indifferente a se stesso, questo non è che un segno che la sua aspirazione non è abbastanza oggettiva. Al suo culmine questa via porterà a questa contraddizione che si è realizzata soltanto l'oggettività e la soggettività è svanita. Cioè la soggettività esistente la quale ha fatto un tentativo per diventare ciò che in astratto si chiama soggettività, la forma dell'oggettività astratta. Eppure l'oggettività che si è realizzata, considerata dal punto di vista soggettivo, al suo vertice, o è un'ipotesi o un'approssimazione, perché ogni decisione eterna consiste precisamente nella soggettività. Il pensiero oggettivo sta qui ad indicare il modello sia della metafisica tradizionale e della scienza moderna, sia il modello della filosofia speculativa hegeliana e non soltanto hegeliana. Rispetto a questo pensiero oggettivo, Kierkegaard rivendica il valore del pensiero soggettivo, esistente per Kierkegaard tutto ciò che non può essere oggetto di dimostrazione. Criticando astratte mediazioni e falsi superamenti della scissione soggetto-oggetto, il discorso kierkegaardiano si pone ad esplicitare le caratteristiche delle vie individuate. Ancora un passo della postilla: quando si pone il problema della verità in modo oggettivo, si riflette oggettivamente sulla verità, come su un oggetto al quale il conoscente si rapporta. Non si riflette sul rapporto, ma sul fatto che è la verità, il vero, ciò a cui ci si rapporta. Quando ciò a cui ci si rapporta è soltanto la verità, il vero, allora il soggetto è nella verità. Quando si pone il problema della verità in modo soggettivo, si riflette soggettivamente sul rapporto dell'individuo. Se soltanto il come del rapporto è nella verità, allora l'individuo è nella verità, anche se a questo modo egli si rapporta alla non verità. Oggettivamente si accentua il das, il ciò che si dice, soggettivamente il vi, il come si dice. Per la via della riflessione oggettiva, la via del pensiero di tipo astratto e matematico, il soggetto diviene fattore indifferente e privo di specifica rilevanza. In tal modo essa si conquista una sicurezza che è però tale solo apparentemente, perché è destinata sempre ad imbattersi nel limite dell'esistenza. Nessun individuo può mai giungere ad una forma di oggettività che lo porti ad uscire completamente da se stesso. Ancora nella postilla Kierkegaard scrive: se effettivamente l'esistente potesse essere fuori di se stesso, la verità sarebbe per lui qualcosa di concluso. Ma dov'è questo punto? L'io uguale io è un punto matematico che non esiste. La speculazione moderna ha fatto di tutto perché l'individuo possa oggettivamente uscire da se stesso, ma questa non è una cosa realizzabile, l'esistenza lo impedisce. La via della riflessione soggettiva è invece consapevole che c'è uno scarto tra il pensiero e l'essere. L'esistenza umana è singolo processo di interiorizzazione e personale, aneignung, dice Jaspers, appropriazione della verità, è divenire. E Kierkegaard nella postilla scrive: ogni conoscere essenziale riguarda l'esistenza, ovvero soltanto il conoscere che ha un rapporto essenziale all'esistenza. Solo questo è conoscere essenziale, il conoscere che non attinge l'esistenza dall'interno della riflessione, dell'interiorizzazione, dal punto di vista essenziale, un conoscere casuale, il cui grado e ambito è essenzialmente indifferente. Ancora, mentre il pensiero oggettivo pone tutto, possiamo dire, in termini di risultati e di fatti, il pensiero soggettivo pone tutto in termini di divenire. Il pensiero soggettivo, essendo un pensiero esistentivo perché riguarda ogni singolo, è un pensiero che non si compie, non si oggettiva, è una ricerca che si rimette sempre in movimento. Si può trovare qui certamente la radice della existence philosophy di Jaspers nel suo differenziarsi dalle filosofie che muovono nell'orizzonte del puro pensiero oggettivo. Certamente al pensiero soggettivo si lega la chiarificazione dell'esistenza di Jaspers, e da esso trae anche il proprio carattere paradossale. La difficoltà del pensiero soggettivo consiste infatti in una contraddizione che si determina nel soggetto pensante. Da un lato il pensiero è universalizzazione, idealizzazione, e questo carattere del pensiero e della ragione non viene meno nel momento che si determina lo stile di pensiero soggettivo. Lo ha ricordato fortemente Ricoeur a proposito di Kierkegaard. Dall'altro lato, il pensiero che muove dall'esistenza e vuole mantenersi in contatto con l'esistenza è legato al divenire e a ciò che non si può mai tradurre, configurare come un oggetto, come un risultato definito, determinato e che è strettamente legato all'esperienza vissuta, all'esistere di fatto singolare. Quindi vi è una contraddizione tra l'aspirazione all'universalità e alla comunicazione, che intanto può esserci in quanto avviene nel medio di significati universalmente validi. Dall'altra parte, il ripiegamento dell'esistenza nella sua singolarità. Quindi c'è come un movimento, dice Kierkegaard, di isolamento del soggetto pensante rispetto agli altri e all'universale. Una situazione paradossale, che è costitutiva del pensiero soggettivo, ma che è l'unico modo per non dimenticare ogni rapporto con la soggettività concreta, con l'esistenza. Il pensiero che chiarisce l'esistenza, dirà Jaspers, conduce di volta in volta a quei limiti in cui è possibile l'appello al singolo, e quindi il salto, che non è mai identico per tutti, ma è proprio di ogni singolo che lo effettua secondo modalità che non possono essere generalizzate. Si situa qui attorno al tema della soggettività della verità, o meglio della soggettività come verità, il nucleo più significativo della recezione jaspersiana di Kierkegaard, al quale è legato strettamente il tema della comunicazione della verità soggettiva o esistentiva. Secondo Kierkegaard, se si tratta di comunicare il pensiero oggettivo, la conoscenza di oggetti, che si esprime in risultati conseguiti attraverso o la concatenazione logica o attraverso l'empiria e le procedure scientifiche, allora è possibile la comunicazione diretta. Quando invece io debbo comunicare il pensiero del paradosso che sta a fondamento della mia esistenza, che costituisce la verità che io vivo dall'interno, non è possibile questa comunicazione diretta, perché non posso parlare direttamente di ciò che è al di là del linguaggio e del pensiero. E al tempo stesso è necessaria allora una forma di comunicazione che si serve di simboli e di metafore, che hanno bisogno di essere interpretate, e questa interpretazione è un compito infinito. Qui c'è un legame tra il pensiero di Kierkegaard e l'ermeneutica, cioè il pensiero inteso come interpretazione sempre aperta, infinita, e al tempo stesso si trova un presupposto della metafisica jaspersiana fondata sul linguaggio della cifra. Vi è quindi una contraddittorietà fondamentale della comunicazione. Scrive Kierkegaard nella postilla: questa assume che la soggettività esistente nell'interiorità dell'isolamento si vuol comunicare e quindi vuole ad un tempo avere il proprio pensiero nell'interiorità della sua esistenza soggettiva e tuttavia comunicarsi. Questa contraddizione non può trovare la sua espressione in una forma diretta che presuppone il risultato e la compiutezza. La comunicazione indiretta è animata dalla libertà personale, che non accetta di irrigidirsi in verità prefissate e non chiede ospitalità al sistema. È manifestazione di un'esistenza in divenire che non riesce mai ad essere compiutamente trasparente neanche a se stessa. La comunicazione diretta, invece, rispetto alla verità come interiorità, è un fraintendimento. Scrive Kierkegaard, se l'esistere è comunicato come un sapere, ecco che si fa cadere il ricevente nel fraintendimento che egli sia riuscito a sapere qualcosa. Anche gli Aspers procede nella stessa direzione. In fondo, l'existenza Rellung è una forma di comunicazione indiretta, paradossale. Essa descrive le strutture della libertà, della comunicazione, della situazione, ma può avere come suo referente solo un singolo io, libero, capace di comunicazione e immerso in situazione. Scrive la Hirsch, Jaspers traccia dei cammini di pensiero che debbono essere realmente seguiti dal lettore e gli invita ad effettuare operazioni dello spirito che sono altrettanti esercizi per la libertà esistenziale. Come tale, la chiarificazione sa che non può identificarsi con nessuna forma oggettivante senza che l'esistenza non corra il rischio di perdersi, ma è anche consapevole di aver comunque bisogno del linguaggio dell'oggettività dell'universale. Anzi, grazie alla chiarificazione dell'esistenza emerge come la dialettica dell'interiorità tipica dell'esistenza stessa rechi con sé una logica che offre alla filosofia nuove possibilità di fondazione e che si esprime attraverso la forma dell'appello, della comprensione psicologica, dei circoli e delle contraddizioni logiche, costruendo attraverso i segni uno schema formale dell'esistenza. La chiarificazione dell'esistenza rappresenta, in definitiva, il tentativo di attrarre nel discorso ciò che normalmente è taciuto, di dare spazio e luce a quelle dimensioni dell'esistenza che sono da evocare più che da spiegare, da illuminare più che da dimostrare. La stessa impostazione di filosofia porta con sé implicito quello che sarà l'ulteriore sviluppo del pensiero jaspersiano, non senza però alcuni mutamenti. Vernunft und Existenz in particolare, ma anche Existenzphilosophie, testimonia nel dopo filosofia la necessità che Jaspers avverte di impostare in un modo nuovo la sua filosofia dell'esistenza, attraverso soprattutto una sottolineatura del ruolo della ragione che offra alla certezza di sé dell'esistenza consapevolezza piena e autenticità di significati. Una chiarificazione dell'esistenza che diviene autochiarificarsi della ragione. Se da un lato la nozione di Umgreifung, che con le opere citate, specialmente con von der Wahrheit, diviene importantissima, sembra far pendere la bilancia verso Hegel, verso quello che Pareson ha definito il riegelizzamento di Kierkegaard. Dall'altro lato, il ruolo di Kierkegaard, insieme a quello di Nietzsche, rimane però decisivo. A Kierkegaard e Nietzsche è infatti totalmente dedicata la prima delle lezioni di ragione di esistenza. Kierkegaard e Nietzsche sono pensatori rispettosi della problematicità dell'esistenza e della sua costitutiva temporalità. Essi consentono di ritenere la verità dell'esistenza irriducibile alla verità scientifica, oggettiva, nell'opporsi ad ogni filosofia concepita come sistema, perché sistema vuol dire separazione dalla realtà, e l'esistenza è proprio qualcosa di opposto al sistema. Il filosofo sistematico non vive di quello che pensa, mentre invece, osserva Jaspers, per Kierkegaard e Nietzsche, la riflessione è fondamentalmente autoriflessione. Jaspers sottolinea soprattutto, in Kierkegaard e Nietzsche, un rinnovato atteggiamento di ricerca totale dell'uomo nella riflessione infinita, che proprio in quanto riflessione è consapevole di non poter raggiungere mai qualcosa di definitivo. Tale atteggiamento di totale disponibilità alla ricerca, per Nietzsche e Kierkegaard, implica il pieno coinvolgimento dell'esistenza nella sua interezza. Ciò è possibile perché mentre la verità scientifica viene intesa da chiunque, nel comprendere una verità filosofica si determina in una possibile trasformazione di me stesso. Così Jaspers scrive nella monografia su Nietzsche. E per questa concezione della ricerca della verità, Kierkegaard si è presentato come un'eccezione, che ha incarnato un pensiero esistente, eccezione, pensiero esistente, sono espressioni di Jaspers. Nel citato abbozzo sul pensiero di Kierkegaard contenuto nel Nachlass, Jaspers osserva, è un punto che sarà ripreso soprattutto da Ricoeur, la sua biografia, i suoi Erlebnis, la sua produttività o creatività sono eventi che lo eccitano potentemente, su cui egli riflette e che egli in questa riflessione viene continuamente modificando, descrivendoli e interpretandoli. Questa vita nella sua interezza è una realtà filosofica che ha ad un tempo un interesse soggettivo ed oggettivo. Il senso di questa vita è l'inseparabile connessione di persona e cosa, sache. Questo pensiero non è il gioco di un'occupazione dovuta, ma come Kierkegaard lo definisce, un pensiero esistente. Jaspers scrive existierendes denken. Come ricorda Ricoeur in filosofia, in filosofare dopo Kierkegaard, Jaspers ha suggerito di filosofare con lo sguardo fisso sull'eccezione. Questo per Ricoeur significa sottolineare il fatto che la ricerca filosofica è sempre intimamente legata con la non filosofia, con la vita, con la realtà dell'esistente e significa inoltre assimilare le argomentazioni e i concetti elaborati da Kierkegaard nella sua critica dell'esistenza. Analogamente, nel citato abbozzo di esposizione del pensiero di Kierkegaard nel Nachlass, Jaspers sottolinea l'intenzione di Kierkegaard di portare alla coscienza, scrive Jaspers, le determinazioni decisive dell'intero ambito dell'esistenza. In ciò corrispondendo al senso della filosofia, che da Agostino fino a Kant consiste appunto nella interrogazione sull'uomo, sul senso della sua esistenza. A questa domanda fondamentale non possono portare un contributo soddisfacente le varie forme di antropologia, dall'antropologia empirica, scientifico-positiva, all'antropologia filosofica, alla psicologia, alla psicoanalisi, che si rivolgono all'essere dell'uomo come ente posto, scrive Jaspers, tra gli angeli e gli animali. E conclude, tutte queste forme di sapere rendono l'uomo oggetto e ritengono di poter conoscere che cosa l'uomo sia. In questo modo, e questa è la tesi sempre ritornante in Jaspers, si perde di vista la realtà dell'uomo che è il singolo. E per questa prospettiva falsa, io sono quel che so dell'uomo e sono un caso dell'universale. E questa, potremmo dire, la dimenticanza dell'esistente, inaugurata da Platone e proseguita da tutta la metafisica occidentale, non la dimenticanza, non l'oblio dell'essere, ma l'oblio dell'esistente, di cui Kierkegaard parla nella postilla, laddove coglie la nascita della speculazione, nella distinzione di Platone da Socrate. Scrive Kierkegaard, è qui che la via si biforca. Socrate essenzialmente accentua l'esistere, malgrado, detto tra parentesi, Kierkegaard rileva che già in Socrate c'è un cenno dell'inizio di questa dimenticanza. Però malgrado questo, Socrate essenzialmente accentua l'esistere, mentre Platone, dimenticando questo, si perde nella speculazione. Perciò il merito infinito di Socrate è di essere stato un pensatore esistente, non un pensatore che nella speculazione dimentica l'esistere. Ma proprio in quanto il pensiero si tiene legato all'esistente, che è divenire, non è possibile costruire un sistema dell'esistenza. Jaspers perciò si sofferma a chiarificare alcuni caratteri, segni, come gli dice, dell'esistenza, che sono poi una costellazione di pensieri sull'esistenza particolarmente significative ed importanti per individuare, usando un'espressione ancora di Ricoeur, una metodologia esistenziale positiva. Io non mi soffermo analiticamente su questi punti, perché dico soltanto che i segni o i caratteri dell'esistenza su cui Jaspers si sofferma in Kierkegaard sono per lui l'immediatezza, nel cui superamento è continuamente impegnato l'esistere, la libertà, che è appunto questo passo oltre l'immediatezza e che è la sfida della chiarificazione, e la chiarificazione stessa, dice Jaspers, e ancora l'angoscia come vertigine della libertà, ancora il carattere dialettico del selbst, del soggetto, dell'essere soggetto, il suo essere contraddittorio, l'universale che si pone come singolo, e soprattutto la categoria della disperazione che scaturisce dal paradosso della compresenza nell'esistente, dell'eterno e del tempo, e dalla perdita dell'eterno che l'esistente finito sperimenta. La disperazione in Kierkegaard, noi sappiamo, apre la strada alla fede. Ed è proprio rispetto alla fede e al rapporto tra fede e filosofia che Jaspers prende congedo dall'eredità di Kierkegaard, difendendo le ragioni della fede filosofica. Di fronte alla fede rivelata, Jaspers si schiera, si potrebbe dire, dalla parte di Socrate e della sua accentuazione dell'esistere, ma non procede kierkegaardianamente oltre Socrate. Se in filosofia Jaspers aveva assimilato, fatto proprio le analisi di Kierkegaard, nel cogliere l'importanza della fede per la costituzione della coscienza esistenziale assoluta e per individuare nelle situazioni limite una via d'accesso privilegiato alla trascendenza, in Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung, l'atteggiamento rispetto alla figura di Gesù Cristo, centro della rivelazione, allontana Jaspers da Kierkegaard, riportandolo piuttosto ad una prospettiva kantiana, la fede razionale nella religione, della religione entro i limiti della semplice ragione. Scrive Jaspers: noi non seguiamo Kierkegaard quando egli dichiara che un solo punto, l'essersi Dio fatto uomo, è l'essenza di tutto. Non lo seguiamo quando egli rifiuta lo studio storico del Nuovo Testamento. Tuttavia, la chiarezza della sua indicazione significa che ciascuno è posto di fronte alla decisione di volere e poter credere che questo sia il carattere autentico del cristianesimo. Se l'uomo crede veramente nel Dio uomo, allora la via della costruzione di Kierkegaard è quasi inevitabile. Fine della citazione. Ma di fronte a questa conclusione di Jaspers, che alla fine sembra optare per la razionalità intellettuale fondata sul principio di non contraddizione, a proposito del paradosso della fede nella Bensche Werdung, vale la pena ricordare l'affermazione delle briciole, secondo cui il paradosso è la passione del pensiero, di voler scoprire qualcosa che esso non può pensare. Ci si può allora anche porre l'interrogativo che Kierkegaard si pone: cos'è allora questa realtà sconosciuta contro la quale va a cozzare la ragione nella sua passione paradossale, mettendo in crisi in fondo la conoscenza che l'uomo ha di sé? E si può meditare da una prospettiva dialettica, cioè di un pensiero che pensa la vita, anche la risposta di Kierkegaard. La risposta che Kierkegaard dà, cioè: cos'è allora questa realtà sconosciuta? È ciò che non conosciamo. Ma non è un uomo? Allora questo sconosciuto chiamiamolo Dio. Grazie. Grazie all'amico Cantillo per questa sua relazione così ricca, così documentata, e che completa stamane un utile confronto fra i due grandi interpreti del nostro tempo, Heidegger e Jaspers, appunto. Sottolineerei soltanto due punti, se possono essere utili alla nostra riflessione comune. Cantillo ci ha richiamato molto al tema della comunicazione indiretta, al come si possa presentare il pensatore soggettivo, ed è un tema che ieri ricorreva anche nel confronto con Schelling, il come appunto della comunicazione. Sottolineerei anche una parola comune nelle due relazioni, che suona in senso negativo, restrittivo in Heidegger, in senso positivo in Jaspers, il termine esistentivo. E questo è un punto sul quale potremo riflettere. Kierkegaard come pensatore esistentivo.